pure mi scoprissi eterno, mai potresti dirmi amore, amore mio per sempre, sempre non è mai per sempre. Seppure mi scoprissi un sole, mai potresti dirmi amore, sei il sole mio per sempre, un sole non è mai per sempre. Seppure mi scoprissi vento, mai potresti dirmi amore, portami via per sempre. Il vento non è mai per sempre. Solo mi volessi amare, anche per un giorno e non per sempre, potresti amarmi e poi scappare, quel giorno rimarrà per sempre. Thank you.